Gente che saluta solo con i guanti, e qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti e benvenuti alle buonanotte di allineamenti. Qui è Gas che vi parla e come al solito stiamo andando verso il concludersi della giornata, il concludersi della settimana, il concludersi del nostro programma. Ci rivedremo settimana prossima. Io inizio ad augurarvi un buonissimo weekend e spero che come al solito viaggerete, andrete via, girerete, vi muoverete e non farete come la storia numero 47 dell'artista Taccagno. Stiamo parlando delle 101 storie zen che abbiamo affrontato questa settimana e che spero che vi siano piaciute e vi abbiano fatto un po' riflettere su il bene, il male, l'impegno, la capacità di essere aperti verso gli altri e di riuscire a camminare con le scarpe più scomode di quelle che stiamo indossando noi. Gesen era un monaco artista. Prima di mettersi a disegnare o a dipingere, insisteva sempre perché lo pagassero in anticipo. I suoi compensi erano così molto alti. Tutti lo conoscevano come l'artista taccagno. Una volta una geisha gli ordinò un dipinto e Gesen chiese quanto puoi pagare. E la ragazza rispose: quello che vuoi tu, ma voglio che tu faccia il lavoro davanti a me. Così un certo giorno Gesen fu chiamato dalla geisha. Ella dava una festa per il suo protettore. Gesen con eleganti pennellate fece il dipinto e quando lo finì chiese la cifra più alta di quel tempo. Ricevette la somma. Allora la geisha, rivolgendosi al suo protettore, disse: quest'artista non vuole che il denaro. I suoi dipinti sono belli, ma la sua mente è sudicia. Il denaro l'ha trasformato in una melma. Uscita da una mente così sporca, la sua opera non è degna di essere esposta. È a malapena adatta per una delle mie sottovesti. Togliendosi l'abito, chiese a Gesen di fare un'altra pittura sul dietro della sua sottoveste. Quanto mi paghi? Domandò Gesen. Oh, qualunque somma, rispose la ragazza. Gesen stabilì una cifra spropositata, fece il dipinto come gli era stato chiesto di farlo e se ne andò. In seguito si seppe che Gesen era tanto avido di denaro per queste ragioni. Spesso la sua provincia era afflitta da una tremenda, terribile carestia e i ricchi non aiutavano i poveri. Così Gesen aveva un magazzino segreto, ignoto a tutti, che lui teneva sempre pieno di grano, pronto per quei casi di emergenza. La strada che portava dal suo villaggio al santuario nazionale era in pessimo stato e per molti pellegrini il viaggio era estremamente disagevole. Lui voleva costruire una strada migliore. Il suo insegnante era morto senza portare a compimento il desiderio di costruire un tempio e Gesen voleva terminare questo tempio per lui. Quando Gesen riuscì a realizzare questi tre desideri, buttò via i pennelli e gli attrezzi da pittore e ritiratosi sulle montagne, non dipinse mai più. Una storia che mi ha fatto venire un brividino, ve lo giuro, io sono molto peloso, quindi ho la percezione molto forte, sono molto sensibile e i miei peli si sono un pochino rizzati, non so i vostri. E quando leggi e provi queste sensazioni sei felice, o comunque sei così sconvolto dall'intensità di quello che puoi percepire, che sei felice forse, sì. E allora io vi lascio con una canzone che è molto felice. Vi lascio con un tipo che è molto simpatico. vi lascio con Pharrell Williams e la sua canzone che è Happy. Ben ritrovati. Non possiamo concludere questa settimana di delle buone notti di allineamenti che mi ha visto raccontare le 101 storie zen con la 101esima storia che si intitola Lo Zen di Buddha. Buddha disse: io considero la posizione dei re e dei governanti come quella dei granelli di polvere. Osservo tesoro di oro e di gemme come se fossero mattoni e ciottoli. Guardo le più belle vesti di seta come cenci strappati. Vedo le miriadi di mondi dell'universo come i piccoli semi di un frutto e il più grande lago dell'India come una goccia d'olio sul mio piede. mi accorgo che gli insegnamenti del mondo sono l'illusione dei maghi. Distinguo il più elevato concetto di emancipazione come un broccato d'oro in un sogno e considero il sacro sentiero degli illuminati come fiori che si schiudono ai nostri occhi. Vedo la meditazione come il pilastro di una montagna, il nirvana come un incubo delle ore diurne. Considero il giudizio del bene e del male come la danza serpentina di un drago e il sorgere, il tramontare delle credenze come null'altro che le tracce lasciate dalle quattro stagioni. E con questo meraviglioso sottofondo di John Butler, con questa 101 storie viste questa settimana, non posso che augurarvi un buonissimo weekend. Il mio sarà strafico, perché porto la mia sorella all'Aerogravity di Fastweb. Se non l'avete mai fatto, vi consiglio di andare a vedere che cos'è. Un simulatore di paracadutismo, molto carino. E detto questo, è giovedì, quindi non andate a dormire in questo momento che è ancora presto per voi che siete giovani e state ascoltando questa radio di Ciao Radio Como e uscite. Buonanotte. Buonanotte dalle buonanotte di Allineamenti. Questo era Gas. Ciao. Gente che saluta solo con i guanti, e qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di Allineamenti.